Come vi trovate qua a Tione? Benissimo, veramente bene. E cosa ne pensate dei giovani? Ma guardi, in tutta sincerità mi sembrano molto meglio di chi ha una certa età. E secondo lei i giovani cosa pensano degli adulti? Non so, non posso risponderle. Ah. Giovane sono stata, non lo sono più. Ecco.